Ave verum corpus nato, de Maria Virgine. Vere passo immolato, in croce pro homine. Voios latus perforato, loci quae sanguine. Est omnis pregustato, mortis in examine. O Iesu nostris, O Iesu Maria.